Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi parleremo di orchestre, ma una parte particolare, diciamo, un tipo di evoluzione che ha avuto la formazione orchestrale, che io considero tra l'altro la forma principe anche dell'espressione jazzistica, nel senso che la tradizione del jazz, specialmente poi nell'epopea dello swing, ha avuto un'evoluzione importante ed è stata anche una sorta di percorso nel quale molte forme, molti stili e quindi anche si sono formate proprio perché molti musicisti hanno potuto collaborare tra di loro e dare forma anche a dei percorsi stilistici sempre più definiti. La storia dell'orchestra, diciamo che prende dal dopoguerra, diciamo nella storia più recente, prende delle strade, dei filoni diversi, spesso diversi uno dall'altro. Penso per esempio alla forma che ha istituito la nascita del free jazz e quindi con tutto quello che è stata l'evoluzione, il percorso della musica di Chicago, quindi prima Braxton, poi Moll Abrams, Treadgill e tutti quelli che hanno proseguito, fino a Bats Morris più recente, che hanno proseguito questo discorso del rapporto tra la forma improvvisata, la forma libera e la struttura, quindi la situazione coordinata. Un altro percorso diverso è stato quello e delle orchestre più tradizionali, diciamo, il tentativo di continuare sulla tradizione di Stan Kenton, ma soprattutto di Woody Herman, che sono state le esperienze di Ted Jones, Mel Lewis, Kenny Clarke. In particolare a sé è stata l'esperienza straordinaria, fondamentale di Gil Evans. Ma negli ultimi anni, stranamente perché tutto sommato la situazione economica non dovrebbe certo favorire la difficoltà della costosità, insomma, di organizzare forme orchestrali, ma sono invece fiorite moltissime orchestre, moltissime esperienze orchestrali. In Europa, ad esempio, c'è un capitolo a parte, ci sono moltissime formazioni diverse con stili molto interessanti, anche molto diversi tra di loro. Negli Stati Uniti, diciamo che quello che poteva essere l'evoluzione della musica di Gil Evans è stato raccolto in qualche modo si può dire perlomeno adesso, forse col senno di poi, è stato raccolto da Bob Brookmeyer. Bob Brookmeyer, peraltro, da noi in Italia è stato conosciuto soprattutto per l'esperienza degli anni 50 con Jerry Mulligan. Fu il musicista che nel quartetto di Mulligan sostituì la tromba di Chet Baker e fu colui che ha dato poi modo al trombone a pistoni di svilupparsi, ma è stato forse più importante come arrangiatore, compositore per orchestra e comunque band leader fino alla sua morte, che è avvenuta un paio d'anni fa. Brookmeyer è stato una sorta di nave scuola che ha raccolto anche musicisti che provenivano dall'esperienza di Gil Evans. Penso per esempio alla Maria Schneider, che ha potuto formarsi in questo contesto. Penso anche a John Hollenbach, che anche lui ha potuto appunto sperimentarsi iniziando la propria attività proprio in questa orchestra e oltretutto dando modo anche di conoscere le prime composizioni orchestrali. Era piuttosto giovane ma con grande talento. Cominciando da questa esperienza, perché poi ha avuto diciamo un seguito che fino ai giorni più recenti, questa forma orchestrale che si sta avvicinando sempre più a un linguaggio che tiene conto un po' di tutta l'esperienza della musica americana, anche la musica classica, penso a Copland o Ives, comunque anche tutta l'esperienza del minimalismo. Il Brookmeyer, che ha avuto diciamo un'orchestra costantemente attiva dagli anni Ottanta fino appunto alla sua morte, è stata una palestra straordinaria. Qui ascoltiamo un disco del 2001 dove appunto ascoltiamo due brani. Il primo è una composizione di Maria Schneider, che appunto comunque nel 2001 era già una band leader tra le più affermate, e la sua orchestra aveva già vinto più volte tutti i premi possibili della critica. E il secondo brano che ascoltiamo è invece di John Hollenbeck, che non dico che fosse alle prime armi, comunque era da un 5-6 anni, faceva parte dell'orchestra di Brookmeyer e dava già prova della sua straordinaria personalità anche nel drumming ma anche nella composizione. Sarà bellissima la composizione che ascolteremo. Thank you. Questa era l'orchestra di Bob Brookmeyer, quest'ultimo pezzo, una composizione di John Hollenbeck. Il primo invece era di Maria Schneider. Una particolarità è che la formazione non è poi tanto importante, sono musicisti decisamente preparati, però il solismo è veramente poco. L'unico appunto che abbiamo ascoltato era da solo al trombone a pistoni di Bob Brookmeyer. Un disco era uscito una quindicina d'anni fa, quindi all'inizio del 2001, e segnalava appunto questo percorso che prende il testimone anche dalle esperienze orchestrali classiche, diciamo, che provengono da Woody Herman e che hanno trovato anche nell'esperienza di Gil Evans una sintesi nella formazione orchestrale di Brookmeyer. In questa sorta di palestra di costruzione di forme, oltre a Hollenbeck e a Maria Schneider, un altro talento sicuramente inferiore, meno conosciuto, è una musicista newyorkese, ormai, sulla quarantina d'anni, quindi ha già una certa esperienza al suo attivo, e che ha prodotto l'anno scorso un disco interessante che si intitola Habitat. La pianista, compositrice, direttrice di questa formazione orchestrale è Christine Jensen. Ascoltiamo un brano che appunto dà la percezione di quanto sia consolidato ormai questa forma e come si sta evolvendo. Thank you. questa era Christine Jensen con la sua orchestra nell'ultimo lavoro fatto l'anno scorso, Habitat, titolato Habitat. Una curiosità, i musicisti non sono certo tra i più conosciuti. Comunque alla tromba la sorella Ingrid Jensen, che è probabilmente più conosciuta, perlomeno negli Stati Uniti, che Christine. L'ultimo lavoro, questo appunto risente evidentemente di tutto quello che è stata, anzi si può dire di quella che è l'orchestra di Maria Schneider, dell'esperienza di Maria Schneider. E gli aspetti formali che si sono modificati e in qualche modo possono dirsi confluiti in un unico percorso che ormai guarda con la stessa attenzione sia nell'ambito della storia dell'orchestra nel jazz, sia in quello della musica americana tout court, dalla musica da film anche alle musiche, diciamo, che fanno parte della tradizione più cosiddetta colta, come Ives, Copland, e forse soprattutto per molti aspetti, anche se non nel caso di Christine Jensen, di Steve Reich e di quello che è stata l'esperienza un po' integralista del minimalismo, ma che per alcuni versi ha lasciato tracce anche interessanti. L'ultimo disco dal quale ascolteremo una parte cospicua, insomma, perlomeno più brani, e forse anche il lavoro, diciamo, recentemente uscito tra i più interessanti, direi anzi un disco ben riuscito, l'ultimo lavoro di un giovane musicista, si tratta di Matt Ullery, è al secondo lavoro orchestrale. Matt Ullery è entrato nella corte, tra virgolette, di Dave Douglas, fa parte della sua etichetta discografica, perlomeno escono i dischi per la sua etichetta discografica, la Greenleaf Music, e questo ultimo lavoro, anche in questo caso decisamente ambizioso, ma ripagato da una qualità notevole, ed è intitolato In the Ivory. È un doppio disco, quindi un doppio CD, che ha al suo interno varie suggestioni, appunto come quelle che citavo prima. Si aggiunge anche la presenza, come peraltro avviene ormai sempre più frequentemente, perlomeno un ritorno, la presenza della voce. La voce femminile di Sarah Mary Young e Eric Hall, quella maschile, sono perlomeno quelle prevalenti. I musicisti anche in questo caso direi che non sono solisti, è una musica molto scritta, molto costruita e quindi ha le caratteristiche che sono ormai sempre più frequenti, non soltanto per orchestra ma anche per piccole formazioni, di una musica sempre più scritta, quindi un jazz o perlomeno quello che può essere ormai l'evoluzione dell'espressione jazzistica, sempre più costruita in forma scritta. Ascoltiamo diversi brani, diversi momenti, che questo è un lavoro costruito un po' come una sorta di opera unica, di suite orchestrale unica. Ascoltiamo diversi di questi movimenti. Thank you. It's all the dirt and dust that we become. Questo era l'ultimo lavoro di Matt Ullery, In the Ivory, un disco uscito recentemente per la Greenleaf. Un bel lavoro che rende merito a questo contrabbassista, compositore, arrangiatore e appunto anche con ottime qualità di conduzione, anche di forme orchestrali allargate. Quindi questo è il percorso che attualmente si può individuare in quello che è la grande tradizione dell'orchestra che ha avuto, come dire, un percorso che è passato da Woody Herman a tutta quella che è l'esperienza legata a Gil Evans e a Kenny Clarke e altre formazioni orchestrali. E probabilmente sono anche altre le esperienze che vanno in questa direzione. Penso per esempio all'ultimo lavoro fatto da Markus Stockhausen, che si può scrivere un po' in questa direzione, oppure anche da altri giovani musicisti che si percorrono più o meno queste strade. Questo era l'ultimo ascolto per oggi, possiamo salutarci, alla prossima. Vi ricordo che la trasmissione, le indicazioni anche sui dischi ascoltati le potete trovare nel nostro sito radiocittafugico.it, la sezione playlist. Salve a tutti. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.